Terzo anello, ad alta voce. Il gioco delle perle di vetro, di Hermann Hesse. Il gioco annuale, noto ancora oggi col nome di gioco della casa cinese, recò a Knecht e ai suoi amici i frutti del loro lavoro e diede alla Castalia e alle autorità la conferma che si era fatto bene, affidando a Knecht la carica suprema. Waldzell, il villaggio dei giocatori e l'élite ebbero la soddisfazione di assistere a una festa splendida e solenne. Anzi, il gioco annuale non era più stato da gran tempo un avvenimento come in questa occasione, in cui il magister più giovane e più discusso doveva presentarsi per la prima volta in pubblico e dar prova di sé. E inoltre Waldzell doveva pareggiare la perdita e il fiasco subiti nell'anno precedente. Silenzioso, distante, gran sacerdote in tutto e per tutto, protagonista vestito di bianco e oro sulla solenne scacchiera dei simboli, il magister celebrò l'opera sua e dell'amico, irradiando calma, forza e dignità. Irraggiungibile ad ogni appello profano, comparve nel salone delle feste, in mezzo ai numerosi chierici, diede inizio a ogni atto del gioco coi gesti rituali, scrisse col luminoso stiletto d'oro i segni eleganti sulla lavagnetta che stava davanti a lui e immediatamente quei medesimi segni apparvero nella scrittura cifrata del gioco, ingranditi 100 volte sulla immensa lavagna della parete di fondo. Furono compitati da 1000 bisbigli, conclamati dagli altoparlanti, spediti nel paese e nel mondo dai teleannunciatori e quando, alla fine del primo atto, egli tracciò sulla lavagna la forma riassuntiva dell'atto stesso, diede con grazia severa la prescrizione per la meditazione. Depose lo stiletto e, mettendosi a sedere, assunse con esemplare dignità l'atteggiamento meditabondo. Tutti i credenti nel gioco delle perle sedettero a loro volta non solo nel salone, nel villaggio dei giocatori e nella Castalia, ma anche là fuori, in varie regioni della terra, per immergersi devotamente nella stessa meditazione, e così rimasero fino a quando il magister si rialzò. Tutto si svolse come sempre, eppure tutto fu nuovo e commovente. Se non che le parole con le quali conclusi i 10 giorni della festa, Joseph Knecht ricapitolò la prima esperienza di fronte all'amico Tegularius, sono memorande. «Possiamo essere soddisfatti», disse. «Certo la Castalia e il gioco delle perle di vetro sono cose meravigliose, sfiorano la perfezione, salvo che sono forse troppo, troppo belle. Tanto belle che non si possono quasi guardare senza esserne preoccupati. Non piace rammentarsi che, come tutto, dobbiamo un giorno scomparire. Eppure, non si può fare a meno di pensarci. Ci sembrerebbe errato e non adeguato al nostro assunto se non volessimo scorgere e rivelare la dualità o polarità nella natura e nella vita del venerato maestro, là dove nessuno, eccettuato Tegularius, aveva saputo riconoscerla. Sarà invece nostro compito presupporre e affermare in questa scissione, o meglio in questa polarità, pulsante senza posa nell'anima di Knecht, il lato caratteristico della sua natura. Knecht fu un modello di amministratore e un grande rappresentante del suo alto ufficio, un maestro del gioco delle perle senza pecche, ma vedeva e sentiva che lo splendore della Castalia, da lui favorito, era pericolante. Non viveva in esso senza scrupoli e pensieri come la grande maggioranza dei cittadini, ma ne conosceva l'origine e la storia, e lo considerava come entità storica soggetta al tempo e scossa dalla sua spietata potenza. Alla base della vita di Knecht stava dunque il problema della Castalia. Esso influiva su tutti i suoi moti, le sue aspirazioni e perplessità, e non fu mai per lui di solo pensiero. Ne era toccato nell'intimo, come nessun altro, e se ne sentiva corresponsabile. Knecht era di quelle nature che possono ammalarsi, esaurirsi e morire, al pensiero che l'idea da loro adorata e professata, l'amata patria, versi in gravi frangenti. Seguendo il filo, arriviamo ai primi tempi di Knecht a Waldzell, ai suoi ultimi anni di scuola e all'importante incontro con l'ospite dei signori che abbiamo già largamente descritto. Era la parte di difensore e rappresentante della Castalia che, infatti, circa 10 anni dopo, fu chiamato a riassumersi col padre Jacobus e a recitare sino alla fine come ludi magister. Ciò che nella gara spirituale e oratoria con dei signori era stato almeno in parte un gioco, divenne in seguito, di fronte al grave avversario e amico Jacobus, una cosa molto seria. Ed egli seppe affermarsi contro entrambi gli antagonisti, crebbe col loro aiuto, imparò da loro, diede, nella lotta e nello scambio, non meno di quanto avesse preso, e se non sconfisse entrambe le volte l'avversario, scopo del resto non previsto fin dall'inizio, lo costrinse però a riconoscere e onorare la sua persona, nonché l'ideale da lui rappresentato. Sia attraverso la battagliera amicizia di Plinio dei Signori, sia attraverso quella del savio padre, Knecht, che non aveva avuto alcun altro contatto col mondo extra Castalio, acquistò una conoscenza, o piuttosto un'intuizione, di quel mondo che, in Castalia, era certamente noto a pochi. Tranne il soggiorno a Mariafels, che tuttavia non poteva procurargli la conoscenza della vera vita mondana, egli non aveva mai vista né vissuta quest'ultima, se non nella prima infanzia. Ma per il tramite di dei signori, di Jacobus e degli studi storici, era arrivato a una viva idea della realtà, un'idea in gran parte intuitiva e accompagnata da esperienze minime, la quale però lo aveva reso più saggio e aperto al mondo che non la maggior parte dei suoi concittadini, non eccettuate forse neanche le autorità. Egli fu e rimase sempre autentico e fedele cittadino di Castalia, ma non dimenticò mai che questa è soltanto una piccola parte del mondo, sia pure la più preziosa e diletta. Che dire della sua amicizia con Fritz Tegularius, con quel carattere difficile e problematico, quell'eccelso artista del gioco delle perle, il viziato e pedante cittadino di Castalia. Quell'uomo singolare era talmente Castalio che il suo modo di esistere sarebbe stato impensabile fuori della provincia. Non sapeva che farsene della pace e della gerarchia, e poco lo turbavano i biasimi e l'isolamento. Era una cellula scomoda e indigesta di una comunità che ha per ideali l'armonia e l'ordine, ma pur essendo così, costituiva in mezzo a un piccolo mondo così limpido e ordinato un continuo fremito vitale, un rimprovero, un monito, un lievito di idee nuove, ardite, vietate e temerarie, una pecora testarda e rispettosa in mezzo al gregge. E appunto perciò conquistò Knecht, nonostante tutto. Noi siamo del parere che nella vita di Knecht Fritz sia stato non meno necessario e importante di dei signori e del benedettino di Mariafels, perché rappresentava un fattore stimolante, una finestrella aperta su nuovi panorami. In questo amico così singolare, Knecht intuì il rappresentante di un tipo che non esisteva se non in questo precursore, il tipo cioè del cittadino Castalio che avrebbe potuto sorgere se la vita della Castalia non avesse saputo ringiovanire e rinvigorirsi con nuovi incontri e nuovi impulsi. Tegularius, come la maggior parte dei geni solitari, era un precursore. Viveva di fatto in una Castalia che ancora non esisteva, ma poteva esistere domani, in una Castalia ancora chiusa rispetto al mondo, ma intimamente già degenere per l'invecchiare e l'allentarsi della morale meditativa dell'ordine, in un mondo dove erano ancora possibili i più alti voli dello spirito e la più profonda devozione agli alti valori. Ma la spiritualità evoluta e libera di spaziare non aveva più altra meta che il godimento delle proprie facoltà grandemente potenziate. Per Knecht, Tegularius era tanto la personificazione delle più alte qualità castalie quanto il sintomo premonitore del loro declino morale. Thank you. Abbiamo ritenuto necessario esporre queste considerazioni, questo riepilogo, per guidare il lettore del nostro abbozzo biografico a comprendere le due opposte tendenze fondamentali della personalità di Knecht e prepararlo alle ultime fasi della sua splendida carriera. Le due fondamentali tendenze, ossia i poli di quella vita, l'ing e lo yang di essa, erano la tendenza alla conservazione, alla fedeltà e al disinteressato servizio sotto la gerarchia, e dall'altra parte la tendenza al risveglio, al progresso, alla conquista e alla comprensione della realtà. Per il credente e ossequiente Joseph Knecht, l'ordine, la castalia e il gioco delle perle erano cose sacre e di valore assoluto. Per Knecht chiaroveggente, nel lato del risveglio e del progresso, erano forme divenute, conquistate, mutevoli, esposte al pericolo di invecchiare, di decadere, di diventare sterili. Mentre l'idea loro rimaneva sempre sacra e intangibile, lo stato contingente invece era caduco e meritevole di critica. Egli serviva una comunità spirituale della quale ammirava la forza e il significato, della quale però scorgeva il pericolo nella tendenza a considerarsi puramente fine a se stessa, a dimenticare il proprio compito e la collaborazione con l'insieme del paese e del mondo, e infine a perdersi in uno splendido isolamento, in un sempre più accentuato e sterile distacco dalla vita. Assolto il suo primo difficile anno di servizio, nel quale non gli era mai rimasto un po' di tempo per la vita privata, ritornò anche agli studi storici. Si immerse per la prima volta a occhi aperti nella storia della Castalia e si convinse che la sua situazione non era quella attribuitale dalla provincia, che soprattutto i rapporti di quest'ultima col mondo esterno e la reciprocazione tra essa e la vita, la politica, la cultura del paese, erano da decenni in regresso. A partire dal secondo anno del suo ufficio, troviamo Joseph di nuovo immerso in studi storici e, oltre alla storia Castalia, sappiamo che si dedicava alla lettura di tutti i lavori di padre Jacobus sull'ordine benedettino. Nelle conversazioni con Dubois e con uno dei filologi di Kuiperheim, ebbe anche occasione di manifestare o incoraggiare quel suo attaccamento alla storia, e ciò gli recava sempre gioia e ristoro. Queste occasioni gli mancavano nei contatti quotidiani, e il disgusto dell'ambiente contro qualsiasi studio storico gli si presentava concretato nella persona dell'amico Tegularius. Tra l'altro, abbiamo trovato un foglio con appunti su una conversazione nella quale Tegularius spiegava con fervore come la storia fosse argomento del tutto indegno di studio per i cittadini della Castalia. Knecht, che ci si divertiva, domandò se la storia dello spirito, della civiltà, delle arti non fosse storia anch'essa e non fosse collegata col resto della storia. «No!» esclamò l'amico con forza. «Nego appunto questo. La storia universale è una gara di corsa nel tempo, una corsa al guadagno, al potere, ai tesori. Si tratta sempre di vedere chi abbia abbastanza forza, fortuna o volgarità per approfittare del momento. Il fatto spirituale, culturale, artistico è invece il contrario. È sempre un'evasione dall'asservimento al tempo, un passaggio dell'uomo dal fango degli istinti e della pigrizia su un altro piano, fuori del tempo, su un piano divino, assolutamente privo di storia e antistorico». Knecht lo ascoltava divertito e lo stuzzicava ad altri sfoghi, non privi di spirito, finché concluse il colloquio con questa osservazione. «Tanto di cappello davanti al tuo amore per lo spirito e per le sue gesta, salvo che la creazione spirituale è una cosa alla quale non possiamo partecipare, come taluni credono. Un dialogo di Platone o un coro di Heinrich Isaac e tutto ciò che chiamiamo atto dello spirito o opera d'arte o spirito oggettivato sono risultati finali di una battaglia per la liberazione o la purificazione. Sono, diciamo pure come vuoi tu, evasioni dal tempo su un piano senza tempo. E nella maggior parte dei casi le opere più perfette sono quelle che non rivelano niente della lotta e delle battaglie che le hanno precedute». È grande fortuna per noi possedere queste opere, tant'è vero che noi Castali viviamo interamente di esse, poiché non sappiamo creare se non riproducendo. Viviamo nella trascendente atmosfera senza tempo e senza lotta, che consta appunto di quelle opere, e senza di esse non ci sarebbe nota. E nello spiritualizzare, o se preferisci, nell'astrarre, andiamo sempre più avanti. Le astrazioni sono una delizia, ma io sono del parere che si debba anche respirare aria e mangiare pane. Knecht creava sempre la possibilità di brevi visite al vecchio magister musiche. Il vegliardo, che perdeva visibilmente le forze e da tempo aveva smesso di servirsi della parola, persistette fino all'ultimo nel suo stato di sereno raccoglimento. Non era malato, e la sua morte non fu precisamente un morire, ma una progressiva smaterializzazione, uno scomparire della sostanza e delle funzioni corporali, mentre la vita si raccoglieva tutta nel suo sguardo e nella leggera radiazione del viso, sempre più scarnito. La maggior parte degli abitanti di Monteport conoscevano questo fenomeno e lo accettavano con rispetto, ma soltanto a pochi, come a Knecht, Ferromonte e al giovane Petrus, era concessa una certa partecipazione a quel radioso tramonto, a quell'ultima luce, d'una vita pura e disinteressata. Questi pochi, quando entravano nella stanzetta dove sedeva il vecchio maestro, riuscivano a penetrare in quel dolce lume dileguante e a sentire la perfezione spogliatasi della parola. Come in un cerchio di raggi invisibili, vivevano momenti beati entro la sfera cristallina di quell'anima, partecipando a una musica sovrumana, e col cuore confortato e illuminato, ritornavano poi all'opera quotidiana, come scendendo da un'alta montagna. Il giorno in cui ricevette la notizia della sua morte, Knecht partì in tutta fretta e trovò il maestro, spentosi dolcemente, coricato sul letto, il volto affilato e ridotto a una runa silenziosa, a un arabesco, a una figura magica, non più leggibile, ma esprimente ancora un ricordo di sorrisi e di compiuta felicità. Dopo il magister musiche e dopo Ferromonte, anche Knecht parlò sulla tomba, ma non disse del profondo conoscitore di musica, né del grande insegnante, né del buono, savio decano dell'autorità suprema. Parlò soltanto della grazia della sua vecchiaia e morte, dell'immortale bellezza del suo spirito, che si era rivelata ai compagni dei suoi ultimi giorni. Da varie fonti sappiamo che ebbe il desiderio di scrivere la vita del vecchio maestro, ma l'ufficio non gli lasciava il tempo necessario a un tale lavoro. Aveva imparato a concedere poco spazio ai suoi desideri. Disse una volta a uno dei ripetenti: «È un peccato che non vi rendiate conto del lusso e dell'abbondanza nei quali vivete. Anche a me, però, è toccato lo stesso quando ero ancora studente. Si studia, si lavora, non si sta con le mani in mano. Si ritiene di potersi considerare diligenti, ma non si capisce quante cose si potrebbero fare, in quanti modi si potrebbe usare questa libertà. Poi arriva all'improvviso una chiamata delle autorità. Si ha bisogno di noi. Si riceve un incarico di insegnante, una missione, un ufficio. Da questo si passa a un ufficio superiore e, senza accorgersi, ci si trova dentro una rete di compiti e doveri che diventa sempre più fitta e più stretta quanto più ci si rigira nelle sue maglie. Sono tutti compiti leggeri, in sé, ma ciascuno deve essere assolto al momento giusto e la giornata di lavoro ha molti più doveri che ore. È bene che sia così e non dovrebbe essere diversamente, ma quando fra l'aula, l'archivio, la cancelleria, l'anticamera, le sedute, i viaggi d'ufficio, si ripensa un istante alla libertà che si possedeva e che si è perduta, alla libertà di eseguire lavori non imposti, di fare ampi studi senza limitazione, può avvenire di provare una grande nostalgia e di illudersi che, se si potesse riaverla, se ne godrebbero fino in fondo le gioie e le possibilità. Aveva un fiuto sottilissimo nel valutare allievi e funzionari e nel capire se fossero idonei a servire nella gerarchia. Knecht li vedeva e conosceva tutti, o almeno parecchi, e la familiarità che aveva con l'antica storia della nostra Repubblica gli presentava la vita in mezzo ad essi come una battaglia accettata ed amata, mentre tanti altri concittadini considerano l'esistenza della comunità e la loro un placido idillio. Anche dalle opere di padre Jacobus sull'ordine benedettino aveva tratto l'idea dell'ordine come comunità militare e della devozione come atteggiamento battagliero. Disse una volta: «Non esiste una vita nobile ed elevata senza la conoscenza di diavoli e demoni e senza la continua battaglia contro di essi». Thank you.